piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi, contrariamente alle mie abitudini, parto subito dal nome della protagonista, Cosima Liszt Wagner. Avete capito bene, due cognomi importanti, direi unici nel panorama musicale ottocentesco. Il primo è quello del padre, Franz Liszt, virtuoso del pianoforte, venerato come oggi si fa con le rockstar, perché Liszt è uno di quegli autori già famosissimo in vita. E l'altro è il marito di Cosima, l'uomo a cui lei ha votato la sua intera esistenza, Richard Wagner, il grandissimo compositore tedesco. In mezzo a questi due pilastri musicali c'è lei, c'è Cosima, che dopo un'infanzia triste, solitaria per l'indifferenza del padre, ha trovato un senso nella esaltazione del culto del marito. Non ho avuto né madre né padre. Richard era tutto per me. Lui è l'unico che mi ha dato amore. Cosima in realtà è vissuta con Wagner solo 10 anni, visto che Wagner era più grande di lei di 24 anni, e lei gli sopravvive per quasi 50 anni, ed è in quei 50 anni che lei mostra tutto il suo incondizionato amore per il marito, perché fa fruttare, se così si può dire, gli anni trascorsi assieme e trasforma ogni attimo, ogni dettaglio di questo amore, ogni ricordo in un simulacro che ha celebrato l'opera e il pensiero di Wagner, e l'ha fatto attraverso il festival che ha contribuito a fondare col marito a Bayreuth, anche se ha forse cristallizzato il lavoro di Wagner nel corso degli anni. Qualcuno dice che il festival di Bayreuth in qualche modo è diventato un delirio patriottico. Ci sono stati anni in cui il culto per Wagner in qualche modo forse si è sovrapposto al nazionalismo socialismo di Hitler, che era un grande ammiratore di Wagner. E d'altra parte, con il Führer Cosima condivideva un certo antisemitismo. Insomma, nonostante quello che scriveva sul suo diario, l'amore di Cosima per Wagner era così cieco, così devoto, forsennato, che alla fine forse l'ha trasformata anche in una donna maniaca del controllo della memoria, ossessiva, pervasa da questo desiderio di venerare il suo unico amore, a costo di rendere infelici tutti quelli che le stavano attorno, a partire dai figli fino ai musicisti con cui lei ha avuto a che fare. Il mio amore è stato per me una rinascita, una liberazione, una dissolvenza di tutto ciò che in me era banale e cattivo. E ho giurato di sigillarlo solo attraverso la morte, attraverso la completa devozione. Francesca Gaetana Cosima nasce il 24 dicembre del 1837 in Italia, sul lago di Como. È la figlia illegittima del grande pianista ungherese Franz Liszt e della sua amante, la contessa francese Marie d'Agoult. I due si sono incontrati a Parigi, lui aveva 21 anni, lei aveva 6 anni in più, e nel clima permissivo della capitale francese, dove si incrociavano destini di gente come Chopin, come George Sand, come il poeta Alfred de Musset, c'è questa relazione tra Marie, che è sposata, madre di due figli, e il giovane Liszt. Si sviluppa questa passione tra qualche scandalo, ma senza particolari imbarazzi. Poi la coppia si trasferisce in Svizzera, dove nasce la primogenita Blandine, e successivamente in Italia, dove nasce Cosima, che la madre descrive così in una lettera al suo amante. Cosima assomiglia all'incantevole Blandine in tutto e per tutto, ma è molto meno bella della sorella e soprattutto meno distinta, anche se la loro educazione è la stessa. La balia dice che bisogna immediatamente darle tutto quello che vuole, altrimenti protesta. Cercherò di insegnarle a vivere diversamente. E 2 anni dopo nasce anche un maschio, Daniel. Marie vuole tornare a vivere a Parigi, però ricordiamoci che è una moglie che ha tradito il marito, che ha avuto 3 figli da un giovane amante, e insomma è un po' troppo anche per una capitale come capitale liberale come era la Parigi di allora. Così Daniel viene lasciato con la balia e le due sorelle vengono affidate alle cure della madre di Liszt, Anne. E non è inusuale a quel tempo che i minori vengano allevati da bali e dai nonni, però è anche vero che i giovani Liszt crescono praticamente dimenticati dai genitori che continuano a viaggiare e magari si imbarcano anche in nuove relazioni amorose. Infatti nel giro di qualche anno la relazione tra Liszt e Marie si dissolve. Alla fine il compositore vieta addirittura all'ex amante di frequentare i loro figli. Lei inizialmente dice: combatterò come una leonessa per riavere i miei figli, poi in verità rinuncia a loro pur di recuperare il suo status nel bel mondo. E intanto Liszt è diventato l'amante della principessa Caroline di Wittgenstein, che rimarrà peraltro al suo fianco per tutto il resto della vita, e questa è una relazione che naturalmente cambierà tutta la storia di questi tre ragazzi. E nel 1850, per esempio, su istigazione della principessa, Daniel viene mandato in collegio. Le due bambine vengono costrette a abbandonare le cure della nonna perché non era raffinata, ma quantomeno era amorevole, e vengono affidate a una vecchia governante della principessa, una certa Madame Patersi de Fossombroni, che i biografi definiscono spaventevole come il suo cognome. Sembra un po' un personaggio di Fantozzi, Patersi de Fossombroni. Le istruzioni che Liszt dà alla nuova governante sono molto chiare. Ho chiesto a Madame Patersi di non lasciare mai uscire le mie figlie senza di lei e di venire a trovarti spesso. Sono convinto che arriverai presto a conoscerla così bene che saprai apprezzarla e amarla per il bene che la sua guida porterà ai miei figli. Solo lei potrà decidere ciò che deve essere autorizzato e ciò che deve essere proibito. Conosce bene le mie idee sul tema della loro educazione e del loro futuro, idee che coincidono in ogni modo con le sue. Beh, questa lugubre dichiarazione di intenti ha come risultato, come potete immaginare, un'educazione oppressiva e anaffettiva. L'unica preoccupazione di questa donna è insegnare alle ragazze come bere il tè, come stare sedute per bene. È un'educazione rigida, bigotta: non possono andare ai concerti, alle feste, la corrispondenza col padre viene censurata preventivamente, quella con la madre è addirittura proibita. E quando Cosima piange per le punizioni, le viene detto che le lacrime sono solo acqua. E ci sono fotografie dell'epoca che ci mostrano Madame Patersi rigidamente seduta con Cosima e la sorella in piedi dietro di lei, che guardano mestamente l'obiettivo. E in più c'è un aggravante: che Blandine è vagamente graziosa, mentre la povera Cosima ha preso tutto il peso del padre, a partire dal lungo naso, ha una faccia triste, ha il fisico allampanato. Liszt non è un padre esemplare, va raramente a trovare le figlie, però senza volerlo, con una delle sue visite cambia la vita di Cosima, perché nell'ottobre del 1853, dopo 8 anni che non vede le figlie, dopo 8 anni, si presenta e porta due giovani colleghi. Uno si chiama Hector Berlioz e l'altro Richard Wagner. Sono due giovani compositori, e quando si incontrano Cosima ha 15 anni, Wagner 40. Forse perché lei è un adolescente che peraltro conduce una vita così tormentata, rimane enormemente impressionata dal carisma di Wagner. Dall'altra parte, per contro, Wagner nota solo una ragazza timida. Arriviamo al 1855. Franz Liszt decide che le figlie hanno bisogno di un cambiamento, perché Madame Patersi ormai è troppo vecchia per seguirle, e quindi le ragazze vengono mandate a Berlino da un'amica di Liszt, si chiama Franziska von Bullow. Il viaggio viene organizzato ovviamente a loro insaputa, e quindi immaginate lo stato di queste due ragazze che si trovano in una città sconosciuta, affidate all'ennesima madre putativa. La von Bullow è una matriarca rigorosa, sospettosa, fredda, frustrata, ha due matrimoni falliti alle spalle, ha un figlio che si chiama Hans, che è dotato, eccentrico e sempre malato, però ha buona propensione per la musica, è uno dei migliori allievi di Liszt. Il passaggio tra Parigi e Berlino ovviamente non è facile. Le ragazze sono abituate a una città più cosmopolita, più aperta, vivace, moderna. Berlino in quel momento è poco più di una città di provincia, è fredda, è cupa, e Franziska von Bullow non è altro che una triste replica di Madame Patersi, forse ancora più distante, ancora più rigida della vecchia governante. Il figlio Hans si prende l'incarico di educare musicalmente le due ragazze. Era stato costretto a studiare legge, però le sue capacità musicali erano tali che perfino i genitori si erano rassegnati. Insomma, quando le sorelle Liszt si trasferiscono a Berlino, il giovane le spinge verso la musica, anche perché lui stesso sta insegnando al conservatorio e dirige in piccoli teatri di provincia. E tra una lezione e l'altra di pianoforte, Hans comincia a avere l'idea di sposare la giovane Cosima, forse più per amore del padre che della figlia. Lo testimonia anche la lettera che il giovane Hans scrive a Liszt per chiedergli la mano di Cosima. «E più che amore quello che sento per lei, piuttosto è l'idea di potermi avvicinare ancor di più a voi, che io considero come il principale istigatore e animatore della mia esistenza presente e futura, colui che riassume tutta la felicità che posso aspettarmi di sentire qui sulla terra. Ai miei occhi Cosima troneggia su tutte le altre donne, non solo perché porta il vostro nome, ma anche perché lei vi assomiglia tanto e perché tante sue qualità la rendono un fedele riflesso della vostra persona». Beh, insomma, una lettera di una tristezza infinita, una lettera sicuramente lusinghiera per Liszt, ma per nulla lusinghiera per Cosima. E non sono certo queste le premesse sulle quali una giovane donna desidererebbe fondare il suo matrimonio, cioè quella di essere il riflesso del padre e di essere sposata per un gesto di piaggeria nei confronti del proprio padre famoso. D'altra parte non è che avesse molte prospettive, perché era bruttina, era sballottata da una famiglia all'altra senza mai averne una, era vissuta in un deserto affettivo terribile, con poche possibilità di seguire i suoi impulsi. L'unico amore che lei conosce è quello per la musica. Questa passione peraltro si confonde quindi con la passione per il futuro marito, che quantomeno ai suoi occhi ha il merito di essere un passabile musicista come il padre. Insomma, uno psicologo qui andrebbe a nozze su questo matrimonio. Anni dopo Cosima parlerà così di questo matrimonio nel suo diario: «È stato un grande equivoco che ci ha legati insieme nel matrimonio. I miei sentimenti verso di lui oggi sono ancora uguali a 12 anni fa. Grande simpatia nei confronti del suo destino, piacere per le qualità della sua mente e del suo cuore, autentico rispetto per il suo carattere, anche se i nostri temperamenti sono sempre stati completamente diversi». Così Cosima Liszt e Hans von Bülow si sposano nel 1857. Durante la luna di miele vanno anche a visitare Wagner, del quale nel frattempo Hans era diventato un grande ammiratore. Negli anni successivi, peraltro, Hans diventerà uno dei migliori esecutori della musica di Wagner. E durante la visita dei coniugi von Bülow succede però qualcosa, anche se solo, diciamo, nel cuore segreto di Cosima. Il giorno della loro partenza Wagner annota questo: «Lei cadde ai miei piedi e mi coprì le mani con lacrime e baci. Riflettei sul mistero senza poterlo risolvere». Il segreto di Cosima rimane ben nascosto. Intanto dà alla luce una prima figlia, Daniela, chiamata così in onore del fratello Daniel, morto a 20 anni di tubercolosi. E poi nasce un'altra bambina, Blandine, chiamata in onore della sorella maggiore, anche lei morta poco prima. Insomma, due bambini che vengono chiamati con il nome di due bambini morti. Già anche questo, insomma, non è un'ottima partenza nella vita. Nonostante la benedizione dei figli arrivati, il matrimonio va ovviamente male, tanto che quando Blandine nasce Cosima ha già iniziato questa relazione che sconvolgerà l'esistenza di tutti. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Cosima Liszt Wagner, figlia illegittima del grande Liszt, del pianista ungherese, e poi amante e poi finalmente moglie legittima di Richard Wagner. La sua sarà una vita di devozione, forgiata al fuoco di una volontà fortissima, devota a un uomo che ai suoi occhi, ma non solo ai suoi occhi, era il genio massimo. Lei, dopo la morte di Wagner, prende saldamente in mano l'ultima parte della vita del compositore e diffonde la sua eredità artistica con la volontà di consacrare Wagner nell'Olimpo dei più grandi musicisti di tutti i tempi, una volontà che le permette di creare un festival, il Festival di Bayreuth, ancora oggi la massima espressione della poetica wagneriana. I diari, le fotografie di Cosima Wagner ci consegnano il ritratto di una donna dalla personalità complessa, non certo amabile. Il suo amore nei confronti di Wagner è innegabile, però forse la stessa passione l'ha portata anche diciamo a un'adesione incondizionata nei confronti dell'ascesa di Adolf Hitler, peraltro grande ammiratore dell'opera di Wagner. Addirittura ci sono degli storici che arrivano a definirla un essere umano terribile, anche i suoi contemporanei, insomma, non andavano per il sottile quando bisognava darne un giudizio. Quello che dice è quasi sempre intelligente e ben pensato, ma si ha la sensazione che sia stato pensato con così largo anticipo che alla fine le sue idee diventano inflessibili e non riescono ad adattarsi alla vera conversazione. Certo, la devozione di Cosima nei confronti di Wagner ha delle radici profonde che peraltro hanno sfidato qualsiasi convenzione del tempo e pensate che per un lungo periodo lei è riuscita a condurre una doppia vita, una specie di menage à trois tra il marito e il compositore tedesco, alla faccia della rigida educazione che le aveva impartito Madame Patersi. Ma andiamo con ordine. Dall'anno del suo matrimonio con von Bulow, Cosima incontra Wagner in due o tre occasioni e il segreto amore che lei cova diventa sempre più grande fino a quando non può più rimanere nascosto. Nel 1864 Wagner ha appena risolto i suoi molti debiti grazie al generoso mecenatismo di Ludwig II di Baviera, che era un suo grande ammiratore. Ludwig II, del quale bisognerà parlare un giorno o l'altro, gli mette a disposizione una casa sul lago Stamberg, gli assicura un vitalizio e così lui invita i von Bulow ad andare a trovarlo, anche perché peraltro vuole convincere Hans a accettare un posto di pianista alla corte di Ludwig. Però alla fine di giugno arriva solo Cosima, perché Hans, il marito, è trattenuto a Berlino per lavoro e qui si consuma il tradimento. Meno di una settimana dopo il suo arrivo alla villa, Cosima e Richard Wagner diventano amanti. Lei ha 27 anni, Richard 51. Quando Hans le raggiunge o non si accorge o fa finta di non accorgersi, però la cosa è talmente evidente che alla metà d'agosto lui si trasferisce in un albergo nelle vicinanze perché ha avuto un crollo nervoso. Nel frattempo Cosima si imbarca in un lungo viaggio per andare a Karlsruhe per incontrare il padre e per parlargli, ma la relazione di Liszt non è quella sperata. Per Liszt la storia di Cosima con Wagner è una tragedia che lui paragona alle morti degli altri due figli. Liszt non si fidava di Wagner, lo considerava un opportunista, un personaggio moralmente riprovevole, un essere egocentrico che usava sia gli uomini che le donne per i suoi fini. Forse anche intuiva l'emergente genio del grande compositore, però c'è da dire anche che le avventure di Wagner erano note. Si era separato dalla moglie dopo 25 anni di matrimonio burrascoso, aveva avuto varie relazioni con una serie di donne e d'altra parte, se no che artista. Comunque l'idea che Cosima diventasse una delle sue tante conquiste non gli faceva per niente piacere. Però in questa situazione Liszt commette un errore perché sottovaluta l'infatuazione della figlia e convince il genero a accettare il posto proprio alla corte di Ludwig di Baviera. Però di fatto in questo modo avvicina ancora di più Cosima a Wagner. E poi c'è una cosa che Liszt non sa, una bomba, perché la figlia è già incinta di Wagner. 9 mesi dopo nasce una bambina che viene chiamata senza alcun pudore Isolde, come la protagonista dell'opera Tristan und Isolde, Tristano e Isotta, e in più la bambina viene ovviamente registrata come figlia di Hans. I coniugi von Bulow e Richard Wagner si trasferiscono a Monaco di Baviera e sono coinvolti in questo menage insostenibile che è una fonte di sofferenza per tutti, che prosegue ancora per un lungo periodo durante il quale Cosima dà alla luce altri due figli sempre di Wagner e li chiama sempre con nomi tipicamente wagneriani, Eva dal Lohengrin e Siegfried dalla terza opera del ciclo dell'Anello del Nibelungo. Insomma, è evidente che Cosima ha scelto Wagner come suo vero sposo. Per anni Hans si rifiuta di arrendersi, fino a quando nel 1869, probabilmente stremato da questo triangolo amoroso, cioè in cui lui però è proprio solo un'ipotenusa inutile, lui capitola, concede il divorzio alla moglie e le scrive così quando il divorzio diventa definitivo. Avete preferito consacrare i tesori del vostro cuore e della vostra mente a un essere superiore. Lungi dal censurarvi per questa decisione, io la approvo. Diciamo che Hans non era proprio un modello di autostima, e nello stesso periodo Cosima scrive questa frase nel suo diario. Fino al momento in cui ho riconosciuto la mia vera e propria vocazione interiore, la mia vita è stata un sogno triste e brutto, che io rifiuto con tutta l'anima. Oggi... finalmente purificata. Il falco e il gabbiano. E così nell'agosto del 1870, dopo 6 anni di relazione, 3 figli, Cosima e Richard Wagner si sposano in Svizzera, dove Wagner vive da quando ha dovuto lasciare Monaco di Baviera. Cosima scrive nel diario: possa io essere degna di portare il nome di Richard. E quello stesso anno lei ha il piacere di svegliarsi al suono di una nuova bellissima composizione che il marito ha scritto in suo onore. Idillio di Siegfriedo. Non posso raccontarvi niente di questa giornata, bambini miei. Niente riguardo ai miei sentimenti, niente riguardo al mio stato d'animo, niente. Niente. Posso solo informarvi, chiaramente e semplicemente, di cosa è successo. Quando mi sono svegliata, ho sentito un suono che cresceva di intensità e non mi sembrava più di sognare. La musica mi avvolgeva. E che musica! E seguono anni di grande felicità per Cosima, che si vota anima e corpo all'opera del marito. E in quel periodo diventa chiara la necessità di Wagner di poter controllare la sua complessa opera. Si fa strada in lui l'idea di costruire un teatro che fosse adatto a rappresentare. La scelta cade sulla cittadina di Bayreuth in Baviera. Qui loro, la coppia, si fa costruire una casa e crea un teatro di nuovissima concezione, il Festspielhaus. E qui nel 1876 i due inaugurano la prima edizione del festival che esiste ancora oggi. Ci sono le più grandi personalità del tempo, dal Kaiser Guglielmo alla grande aristocrazia internazionale, arriva Tchaikovsky, arriva Friedrich Nietzsche e c'è anche Franz Liszt, che si è riconciliato con la figlia e col nuovo genero. Il primo festival si rivela un successo enorme musicalmente e non lo è invece finanziariamente, però arrivano altre soddisfazioni perché Wagner ha completato il Parsifal, che ammette di aver scritto solo grazie a Cosima. Proprio grazie al Parsifal, il secondo festival di Bayreuth nell'82 conosce un grande successo anche finanziario. Per festeggiare, tutta la famiglia Wagner si sposta a Venezia, a Palazzo Vendramin, per trascorrere l'inverno, però la salute di Wagner, che adesso ha 70 anni, non sembra migliorare. L'8 febbraio del 1883 Cosima scrive così sul suo diario: ho fatto colazione accanto al letto di Richard, dal momento che non si sente bene. All'inizio della serata era giù di morale, ma si è gradualmente tirato su, tanto da esprimere gioia al cospetto del mio volto intelligente. 5 giorni dopo, il 13 febbraio, Wagner muore. Per Cosima è la fine. Desidera anche lei la morte, rifiuta di bere, di mangiare, non vuole lasciare la stanza dove c'è il corpo del marito. Quando comincia il processo di decomposizione, viene portata fuori a forza. Si è tagliata i lunghi capelli che ha nascosto in un cuscino di velluto sul quale fa posare la testa del marito. Vestita di nero, accompagna la salma del marito nel lungo viaggio che in treno la riporta Bayreuth. Da allora si vestirà sempre a lutto, anche durante i matrimoni dei figli. E dopo la morte di Wagner, Cosima, che aveva 46 anni all'epoca dei fatti, rimane in vita per un unico scopo, quello di celebrare il genio del marito. E lo fa, ricopre un ruolo cruciale sia nella diffusione dell'opera di Wagner, sia assumendo il controllo del festival di Bayreuth. Lo conduce per decenni con polso d'acciaio, lo rende addirittura un'attività redditizia. E Cosima ha su di sé anche la responsabilità di averlo trasformato forse nel santuario di un certo nazionalismo tedesco, è un luogo dove forse alberga anche un certo antisemitismo, perché insomma è innegabile che Wagner e anche Cosima non fossero molto affettuosi nei confronti degli ebrei. In effetti qualche coincidenza c'è, si dice che il direttore d'orchestra Hermann Levy, che per primo aveva diretto il Parsifal, abbia avuto insomma vita abbastanza difficile all'interno dell'associazione, e poi in effetti sia la figlia Eva che il figlio Siegfried avevano sposato due inglesi piuttosto antisemiti, il filosofo Houston Stuart Chamberlain e Winifield, che era un'amica di Adolf Hitler, e fu lei a sostenerlo in prigione, a procurargli la carta sul quale Hitler scrisse il Mein Kampf. La prima visita di Hitler a Bayreuth risale già al 1923, ne seguiranno altre, e il festival viene considerato per anni addirittura l'emblema del nazionalsocialismo, con camicie brune sedute nelle prime file durante le rappresentazioni. Cosima sopravvive al marito per quasi 50 anni, anni interamente spesi a mantenere il culto di Wagner, a conservarne l'opera, a vietare ogni forma di modernizzazione del festival di Bayreuth, impossibilitata a creare cose nuove. Lei ha impiegato il resto dei suoi anni a mantenere lo status quo del festival, fino ad arrivare al punto in cui gli stessi set creati ai tempi di Wagner cominciavano a cadere in pezzi. Insomma, Wagner e la sua musica hanno dato significato a una vita vuota di affetti e di scopi, alla vita di Cosima, e lei lo ha ricompensato votandogli l'esistenza a qualunque costo, come una vera valchiria, tanto per parlare linguaggi wagneriani, una valchiria al servizio del suo dio. Ci sono persone che sono riuscite a dare un colpo d'ala valorizzando le persone che amavano, le persone che hanno vissuto con un genio e hanno saputo difenderne e propagarne la memoria. È il caso di Cosima, che è riuscita a uscire da una vita terribile grazie all'aver conosciuto il grande Wagner. E ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche volare molto in alto come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalarci altre vite, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina e sapete dove trovarmi anche sui miei e i nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.